così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla. E così te ne vai. Cosa mi hai preso adesso? Forse mi scriverai, ma sì è lo stesso. Così vai via, l'ho capito. Sembra già che non potrò più farne a meno, mentre i minuti passano. Forse domani correrò dietro il suo treno. Tu non scordarmi mai, com'è banale adesso. Balliamo ancora, dai, ma si è lo stesso. Vai via così. finisce allora tutto qui, tra poco andrai, un lento l'ultimo.